Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Afghanistan, 19 novembre 2001. Siamo sulla strada che collega Jalalabad a Kabul. A bordo di un'auto presa a noleggio viaggiano quattro giornalisti. Maria Grazia Cutuli del Corriere della Sera, l'australiano Harry Barton e l'afgano Azizullah Idari, entrambi corrispondenti della Reuters, e lo spagnolo Julio Fuentes del Mundo. Il veicolo viene bloccato da un gruppo di uomini armati. Prima li fanno scendere dalla vettura. Poi esplodono contro di loro raffiche di Kalashnikov. I quattro giornalisti vengono uccisi. Radio Capital riesce ad intercettare Eduardo San Juan della televisione spagnola. Lui si trova sullo stesso convoglio di Maria Grazia Cutuli, ma alla fine, per miracolo, si riesce a salvare. I giornalisti sono stati fatti scendere mentre continuavano a ripetere che erano giornalisti, che erano innocenti e non c'entravano nulla. Li ho visti andare verso la montagna e continuavano a chiedere che non li uccidessero, che andavano a Kabul per lavoro. Ma quelli li hanno messi in fila e hanno cominciato a sparare. Allora il loro autista è tornato indietro e ha detto a tutti di non andare oltre di un metro, di tornare indietro perché stavano uccidendo i giornalisti. Così noi siamo corsi fino a Jalalabad il più velocemente possibile. Poi a Jalalabad un altro autista di Pullman ci ha detto di avere visto a terra due giornalisti che lavoravano per un'agenzia inglese, uno di un giornale spagnolo e una giornalista che lavora per un mezzo di informazione italiano. È stato ucciso anche il traduttore della giornalista italiana e di quello spagnolo, che faceva anche da autista. Del periodista spagnolo e della periodista italiana. In Italia le notizie che giungono dall'Afghanistan sono frammentarie, le testimonianze restano ancora confuse. Gli inviati a Kabul cercano di strappare alle autorità locali una conferma, ma non vi è alcuna certezza, come rileva Tiziana Ferrario in diretta dalla capitale afghana nell'edizione delle 13.30 del TG1. C'è la testimonianza indiretta, però ve lo ripeto, indiretta dell'autista della loro macchina, che ha raccontato che il convoglio è stato fermato da alcuni uomini armati, lui è sceso, è scappato e poi ha sentito alcuni spari, però appunto si tratta di una testimonianza di una persona che non ha visto poi lo svolgimento completo della vicenda. Tutto sarebbe accaduto in una zona che si chiama Polirskarahan, c'è un'oasi in quell'area. E quindi anche noi stiamo cercando di capire che cosa sia veramente successo. Maria Grazia Cutuli comunque conosce bene questa zona, è venuta più volte in Afghanistan, in Pakistan, ha fatto molti reportage, molti articoli su tutta la vicenda. Io l'avevo incontrata a Islamabad proprio alcune settimane fa. Passano le ore e la notizia viene confermata, così come la dinamica dei fatti diventa allora più chiara. I corpi senza vita dei quattro giornalisti vengono trasportati all'obitorio di Kabul e queste sono le impressioni di Franco Di Mare, 20 novembre 2001, TG1. Sì, dovrebbero essere arrivati qui, sono all'obitorio dell'ospedale di Kabul. Abbiamo inviato i nostri cameraman a fare delle riprese drammatiche, purtroppo, di una storia che non avremmo mai voluto vivere né testimoniare. Non sono le prime vittime tra i giornalisti qui in Afghanistan, dopo i tre uccisi prima della caduta di Kabul nella zona del nord, ma questo pluriomicidio, perché così lo possiamo definire, è stata una vera e propria esecuzione, ci dice anche qualche altra cosa, che l'Afghanistan non è ancora del tutto controllato dall'Alleanza del Nord e che anche tra la stessa Alleanza del Nord ci possono essere defezioni, ci possono essere sacche di resistenza armata, ci possono essere bande che non rispondono più al controllo di nessuno se non a quello di capetti locali. Si tratta di banditi che scorrazzano lungo le strade principali facendo razzia di beni e di auto e di altro, ma si tratta anche purtroppo di talebani. Il 22 novembre 2001 la salma di Maria Grazia Cutuli viene riportata in Italia e due giorni dopo si tengono i funerali. Si trovano in 10.000 a Catania per l'ultimo saluto all'inviata del Corriere della Sera. Una città si ferma e con lei tutto il paese. Assassini senza pietà, ammonisce dal pulpito il vescovo di Catania, Luigi Bommarito. Ti hanno scaricato sulla schiena una sventagliata di mitragliatrice. Sulla schiena. Non hanno avuto il coraggio, quelle belve umane, di guardarti in viso. Dall'altare della cattedrale di Catania prende poi la parola l'allora direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli. Rimpiango le occasioni di dialogo perdute e sacrificate a una quotidianità che oggi mi appare vuota. Maria Grazia Cutuli scavava nella notizia. Osservava le cose del mondo con occhi curiosi e attenti. Il mestiere del giornalista l'aveva portata in tempi rapidi nei principali fronti di guerra. Maria Grazia Cutuli nasce a Catania nel 1962. Inizia la sua carriera di giornalista nell'86 nel più importante quotidiano della Sicilia orientale, La Sicilia. Poi passa a Sud, settimanale regionale, collegato all'emittente televisiva Telecolor International. Si trasferisce a Milano per la scuola di giornalismo. Collabora con le riviste 100 Cose, Epoca e approda al Corriere della Sera, redazione esteri. Africa, Medio Oriente e Afghanistan in particolare sono le sue principali passioni. Tra le sue esperienze professionali anche una collaborazione con l'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei profughi. La morte di Maria Grazia Cutuli avviene poco dopo l'attacco di Al Qaeda alle Twin Tower di New York, 11 settembre 2001, e il conseguente conflitto americano in Afghanistan contro i talebani, amici e complici della rete terroristica, 7 ottobre 2001. A while ago I said to the American people, our objective is more than Bin Laden. Sono le ore della caccia delle forze speciali americane allo sceicco Osama Bin Laden sulle montagne impervie dell'Afghanistan. Sono gli attimi dove infuria la battaglia di Kandahar e il capo dei talebani, il Mullah Omar, ordina ai suoi uomini di ritirarsi e lasciare all'alleanza del nord anche la roccaforte talebana. Sono i giorni del viaggio della squadra navale italiana impegnata nella missione Enduring Freedom lanciata dal presidente americano George Bush dopo l'11 settembre. Due giorni prima di essere uccisa, Maria Grazia Cutuli invia al sito internet del Corriere della Sera questa dettagliata corrispondenza sul conflitto in Afghanistan. Maria Grazia Cutuli da Peshawar per il Corriere Online. A un mese dall'attacco anglo-americano sull'Afghanistan, Peshawar, la città del Pakistan sulla frontiera, si sta trasformando in una vera e propria retrovia della guerra, così come era stata un po' negli anni Ottanta durante la jihad contro i sovietici. Queste ultime settimane sono state un po', se vogliamo, caratterizzate da una forte tensione all'interno dei partiti religiosi fondamentalisti che promettevano di mettere la città a terra a fuoco con le loro manifestazioni anti-americane e contrarie anche al governo del presidente Musharraf per la sua alleanza con gli USA, ma soprattutto da nascere di diversi movimenti che rischiano, se vogliamo, anche di stabilizzare lo stesso Pakistan. E i religiosi in qualche modo sono stati venuti a freno dalle leggi speciali applicate dal presidente. Le proteste si sono smorzate dopo un momento iniziale di tensione molto forte, ma sottoterra si stanno creando dei movimenti, se vogliamo, ben più pericolosi. Quello di Maria Grazia Cutuli è un racconto in prima persona, forte, pregnante, emozionale, così come sono le ultime parole dello spagnolo Julio Fuentes del Mundo, con lei uccisa in Afghanistan. Mi chiamo Julio Fuentes. Sono uno di quelli che comunemente si definiscono corrispondenti di guerra. Ho esperienza di 8 o 9 carneficine sparse per il pianeta. Salvador, Nicaragua, la guerra del Golfo, Afghanistan o Liberia. è lo stesso. In nessun luogo ho scoperto ideali che giustificassero la morte di un solo essere umano. Gli innocenti, disarmati o meno, costretti o volontari, muoiono sempre nel nome di un illuminato che impartisce ordini, nel nome di un desiderio ardente di potere, di conquista o di dottrina politica. Ho imparato che in tutti la guerra sono sempre gli stessi a morire. Tra poco, dopo la pausa, il racconto del giallo e nero su Maria Grazia Cutuli. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Maria Grazia Cutuli del Corriere della Sera, l'australiano Harry Barton, l'afgano Aidari della Reuters, lo spagnolo Julio Fuentes del Mundo. Quattro professionisti specializzati in reportage di guerra. Perché si trovavano a bordo di un'auto lungo la strada che collega Jalalabad alla capitale dell'Afghanistan, Kabul? Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, era con loro pochi giorni prima del 19 novembre 2001. Avevamo vissuto insieme gli ultimi giorni prima di arrivare a Kabul, che erano stati molto intensi e drammatici. Eravamo partiti assieme su uno stesso mezzo per andare da Peshawar a Jalalabad, che stava per essere praticamente liberata in quei giorni dai Pashtun che avevano abbandonato i talebani. Arrivamo a Jalalabad in piena notte, era già molto buio, in una città percorsa da bande di uomini armati che sparavano in aria da tutte le parti e festeggiavano appunto la presa della capitale del sud dell'Afghanistan, quella proprio ai confini con il Pakistan. Cercammo, aggirandosi in mezzo a queste ombre di uomini col turbante, con le barbe, un qualche posto dove dormire, e trovammo ricovero in questo hotel Springer, dove di hotel c'era davvero poco, ma potemmo arrangiare qualche camera da letto in mezzo a dozzine e dozzine di uomini armati che circolavano appunto in quelle ore di caduta di Jalalabad, ma anche di grande tensione e confusione su quello che stava accadendo in quel momento in Afghanistan. Il luogo dove Maria Grazia Cutuli è stata assassinata è tra i più pericolosi dell'Afghanistan, una zona dominata da bande in conflitto tra loro per il controllo del territorio, come conferma Alberto Negri. Il luogo dove è stata uccisa si chiama Sarubi. Sarubi è una gola. Ci volevano alcune ore di auto allora per arrivarci da Jalalabad, perché Maria Grazia si era fermata a Jalalabad per fare servizio, mentre alcuni di noi erano partiti quasi subito per Kabul dopo un paio di giorni. Si era fermata con Julio Fuentes e con altri colleghi come Claudio Monici dell'Avvenire, che avrebbe dovuto partire appunto insieme a loro due, ma non lo fece perché cadde gravemente malato, fu quasi ricoverato per una polmonite. Quella strada da Jalalabad a Kabul è veramente difficile. Sarubi è uno dei posti peggiori. Perché? Perché si trova in una zona che era stata sempre stata contesa dalle bande dei Mujahideen, era una zona controllata da Hikmatyar. Hikmatyar era un alleato dei talebani, era un violento, duro, puro tra i capi dei Mujahideen, e Sarubi era una di quelle zone ancora sotto il controllo di Hikmatyar e comunque infestate da talebani. In quel punto, precisamente in quel punto, poco prima, gli autisti di solito acceleravano, davano un colpo d'acceleratore su questa strada dove l'asfalto non c'era quasi più, anzi non c'era affatto, fatta di buchi, di sassi, e davano proprio un colpo d'acceleratore per passare questa gola che era ritenuta da tutti pericolosissima, perché proprio in quel punto si temevano agguati come se ne erano verificati diversi anche in passato. È tutto chiaro dietro la morte di Maria Grazia Cutuli? In Afghanistan la giornalista del Corriere della Sera sta indagando in quelle ore sulla rete della Jihad, quella che fa capo ad Al-Qaeda, responsabile degli attentati dell'11 settembre. I centri di reclutamento per la Jihad sorgono un po' dappertutto, sorgono a Peshawar e sorgono anche lungo la frontiera, nelle aree più integraliste come il distretto di Malakand o di Mindanao. Da qui partono migliaia di volontari destinati a combattere con i talebani, a entrare in Afghanistan per rafforzare le prime linee dei guerrieri coranici. Si parla di 10.000, 20.000, forse 30.000 volontari islamici che in questi giorni stanno partendo un po' da tutte, dai valichi, stanno passando i valichi di montagna per entrare in Afghanistan. Sono molto difficile avvicinarsi a loro, quindi se hanno notizie si può parlare con i loro organizzatori, con i loro capi religiosi, con chi ispira il movimento. Molto più difficile vedere direttamente in azione perché sono ormai concentrate nelle aree tribali, quasi sempre inaccessibili per i giornalisti occidentali, però sicuramente le notizie che arrivano sono molto allarmanti perché non sono solo dotati di Kalashnikov ma gente che parte con armamenti di tutti i tipi, compresi anche missili, lanciagranate, artiglierie pesanti. Questo, diciamo, è uno degli scenari che ricorda un po' la Jihad degli anni Ottanta ed è quello che riguarda il rinforzo dei talebani, dell'esercito dei talebani. In quei giorni Maria Grazia Cutuli analizza gli scenari geopolitici in modo preciso, puntuale, e in questo passaggio della sua corrispondenza da Peshawar anticipa ciò che in pochi anni sarà il nuovo Afghanistan. Ci sono i nomi, i cognomi dei personaggi che governano oggi il paese. Peshawar è anche un po' diventata la centrale dell'opposizione, di una nuova opposizione che non è quella appunto dell'Alleanza del Nord o del Fronte Unito, ma di un'opposizione che si caratterizza soprattutto per l'appartenenza all'etnia Pashtun e che si prepara sia ad aiutare gli americani nella guerra contro il regime e sia chiaramente a entrare un domani in un futuro governo dell'Afghanistan. Gli oppositori sono tutti schierati col re, sono miriadi di gruppi, di fazioni, quasi impossibile contarli, però hanno tutti come unico referente re Zahir Shah, che ne sigla Roma, e quindi tutti, diciamo, partigiani del suo ritorno, pronti anche appunto a cercare di spingere per un governo che sia non solo dominato appunto dall'Alleanza del Nord, dall'Alleanza del Nord, ma soprattutto dall'etnia Pashtun. Tra questi oppositori che abbiamo visto in azione qui a Peshawar, perché hanno organizzato dei grossi convegni, delle conferenze, delle convention, ci sono anche dei capi militari. In questo momento, in quest'ultimo mese, Peshawar è diventata appunto la centrale dei ex mujahideen che potrebbero tornare a svolgere un ruolo anti-talebani. Uno di questi, diciamo il più sfortunato, è stato Abdulak, comandante storico della Jihad, richiamato dagli americani e dallo stesso re Zahir Shah per cercare di fomentare una rivolta nazionale in Afghanistan. Abdulak è entrato nel paese una decina di giorni fa, purtroppo è stato catturato e messo a morte dai talebani. Un altro comandante militare è Hamid Karzai, è entrato anche lui in Afghanistan con un centinaio di uomini e attualmente è ancora bloccato nelle regioni centrali del paese e si sa che i talebani stanno dando la caccia, ma non si sa se sono effettivamente riusciti a prenderlo oppure no. Altri centinaia di altri comandanti organizzano meeting, riunioni nelle case di Peshawar, nei cortili, nelle sale convegno ed è tutto un movimento di oppositori che pensano come organizzarsi, come poter aiutare gli americani nel destabilizzare il regime, come poter anche ricevere soprattutto soldi da Washington e armi per rientrare in Afghanistan a combattere. Alcune domande. Perché i quattro giornalisti vengono uccisi senza un motivo e senza essere derubati? Perché i killer uccidono quelli che potrebbero essere degli utilissimi ostaggi con i quali coprirsi la fuga e per i quali contrattare un riscatto? Secondo molti analisti, Maria Grazia Cutuli e Julio Fuentes avrebbero scoperto l'utilizzo di gas sarin in Afghanistan da parte degli americani. Lo scrivono i due inviati su Corriere della Sera e Il Mondo il 19 novembre 2001. Scrive Julio Fuentes. La cosa più inquietante della base americana di Farmada sono 40 container di grandi dimensioni, chiusi con catenacci di fabbricazione cinese. Le ampolle stavano in uno di essi, l'unico con la porta aperta, anche se fermata da una catena. Alcuni dei container ispezionati portavano etichette di compagnie statunitensi. Scrive Maria Grazia Cutuli. E forse non è un caso che tra tutte le basi abbandonate dagli uomini di Al-Qaeda in questi giorni, dopo la partenza dei talebani e l'arrivo dei Mujahideen, Farmada sia una delle poche a non essere stata bombardata. E conclude Julio Fuentes, perché il Pentagono si è astenuto da bombardare la base di Al-Qaeda, sospettata di custodire armi chimiche e batteriologiche. Spesso però la dietologia non c'entra e certe morti misteriose alcune volte sono drammaticamente chiare. Un'esecuzione di una banda locale per il controllo del territorio, come ci ricorda Alberto Negri del Sole 24 Ore. All'inizio si fece l'ipotesi che alcuni articoli pubblicati sia da Maria Grazia sia da Julio Fuentes su Per il Mondo, Julio Fuentes era inviato del Mondo, lo ricordo, potessero aver scatenato la rabbia, il desiderio di vendetta da parte dei talebani o di qualche gruppo della jihad islamica. In realtà io credo che purtroppo forse una ragione così precisa forse non c'è, ma c'è in realtà la grande e terribile insidia che ha sempre avuto l'Afghanistan, appunto infestato da bande di predoni che sono arrivati a uccidere. Ricordiamo che quella strada nei giorni precedenti c'erano state delle sparatorie e nello stesso giorno in cui furono uccisi Maria Grazia e Julio, una troupe greca, della TV greca, gente che io conoscevo molto bene sin dalla guerra dei Balcani, riuscirono a sfuggire proprio di un soffio a un posto di blocco dei banditi che invece poi riuscirono a catturare Maria Grazia e Julio. Cioè erano gli stessi che erano sulla strada a far rispettare, diciamo così, la loro legge, la legge dei predoni e la loro legge di banditi di strada, ma anche di combattenti che volevano dimostrare di essere ancora in grado di poter controllare il territorio. Questo credo che ci sia dietro soprattutto la morte di Maria Grazia, e con un episodio. Qualche giorno prima che loro partissero, se non sbaglio un 48 ore prima, io con altri colleghi che eravamo già arrivati a Kabul da qualche giorno, prendemmo una telefonata da parte di un collega italiano, di Claudio Monici, che stava appunto a Jalalabad e che avrebbe dovuto partire con Julio e Maria Grazia. E Claudio ci chiese appunto com'era stato il nostro viaggio. Noi eravamo stati fortunati, avevamo avuto un viaggio senza alcun tipo di problemi, anzi, poco dopo aver sorpassato proprio la famigerata gola di Sarubi, ci eravamo fermati in un piccolo bazar di un villaggio lungo la strada e non avevamo appunto avuto problemi, gli abbiamo indicato appunto, dato alcune indicazioni appunto su questo percorso e poi appunto Claudio non riuscì a partire perché è malato, invece gli altri due partirono e furono uccisi. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi.